GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un pakistano di 26 anni ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine è stato accoltellato durante la rissa di ieri sera in centro città. Sottoposto a intervento chirurgico è ancora in pericolo di vita. La proroga delle concessioni balneari a grado non è regolare, lo evidenzia l'Authority per la concorrenza. Alla base l'applicazione della contestata legge Centinaio. I medici volontari di Donk a sostegno della salute pubblica di chi non ha niente. Centinaia di migranti in transito assistiti dall'organizzazione animata da sanitari che assicurano anche un filtro importante ai pronto soccorso degli ospedali. Favorisce il contatto tra università e mondo del lavoro e nel corso degli anni ha dimostrato di funzionare. È il Career Day, il giorno della carriera, che oggi fa incontrare all'Ateneo Triestino 700 studenti con 54 imprese del territorio. Si intitola Lo Schifo, lo spettacolo di Stefano Massini che racconta gli ultimi giorni di vita di Ilaria Alpi e l'insabbiamento del processo. Per il regista Sangalli una figura fondamentale di buon giornalismo, deontologia e concretezza. Sottile punta domenica prossima Udinese Genoa potrebbe essere una partita decisiva per il campionato bianconero, ma anche per il suo allenatore. Buongiorno da Andrea Covre e Dario Ronzoni in studio per questa edizione del giornale radio regionale del Friuli Venezia Giulia. In apertura la cronaca, un pakistano di 26 anni è in pericolo di vita a causa delle lesioni subite ieri sera nella maxi rissa scoppiata in centro a Udine. Decine le persone coinvolte. A Palmanova lo scorso fine settimana un episodio analogo aveva visto protagonisti dei giovanissimi. È stato disposto un inasprimento delle misure di vigilanza, ma gli episodi continuano. E di due feriti il bilancio della rissa avvenuta ieri sera in centro a Udine. Un pakistano di 26 anni è ricoverato in pericolo di vita all'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'uomo, secondo i primi elementi raccolti dai carabinieri della compagnia di Udine, è stato gravemente ferito al torace con un coltello. Soccorso dal personale sanitario, è stato accompagnato in ospedale e operato. Il secondo ha subito solamente una ferita di striscio, medicato è stato dimesso. Intorno alle 21 due gruppi di stranieri si sono affrontati. I primi diverbi sono cominciati al lato della loggia del Lionello, all'esterno di un bar, dove è partito un lancio di bottiglie, bicchieri e oggetti di ogni tipo. La violenta lite tra colpi e rincorse si è poi spostata davanti al terrapieno e alla loggia di San Giovanni, quindi tra i tavoli di un altro locale, ed è proseguita in via Rialto. Poi i due gruppi si sono divisi, uno scappando verso via Mercato Vecchio, l'altro verso via Vittorio Veneto. Sul posto diverse pattuglie delle forze dell'ordine, i militari dell'arma e gli agenti della polizia di Stato sono riusciti a bloccare e identificare alcuni dei violenti. Alfredo D'Agostino, questore di Udine. È un episodio che certamente crea turbamento per chi vi ha assistito, crea preoccupazione, ma un episodio nel quale la risposta delle forze dell'ordine è stata immediata, tant'è che ci sono certamente dei risultati che verranno posti all'attenzione dell'opinione pubblica da chi ha proceduto. Gli investigatori hanno lavorato tutta la notte per ricostruire le cause e i contorni dell'episodio, per identificare quanto hanno preso parte alle violenze. E in particolare la persona che ha impugnato il coltello. Le forze dell'ordine hanno già fermato 5 persone, particolarmente serie appare la posizione di 3 di loro, 2 cittadini pakistani e un italiano di origine ucraina. Si stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza, ma anche quelle girate dai telefonini cellulari dai passanti che si sono trovati a essere testimoni. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono ormai migliaia le visite garantite da Donk, l'associazione di volontariato medico che assicura controlli sanitari ai tanti migranti di passaggio. Una funzione di salute pubblica la loro, garantita a tutti gli indigenti. Siamo stati con loro a Gradisca. È un gruppo molto, molto vario, molto interessante, di varietà, di varie esperienze, ma tutti hanno un obiettivo che è quello di dare una mano a questi ragazzi. Dopo 35 anni di ospedale, il nefrologo Francesco Bianco ha deciso di rimettersi in gioco con una nuova esperienza. Lo incontriamo nel camper di Donk, l'associazione di medicina umanitaria di Trieste che cura gli ultimi. Il mezzo è da un paio di mesi ogni mercoledì sera a Gradisca davanti alla chiesa di San Valeriano. Qui la notte dorme un gruppo di richiedenti asilo senza un posto dove stare. È la prima iniziativa fuori Trieste per l'associazione che ormai coinvolge 50 medici, tutti volontari, alcuni giovanissimi come Federica Perino, fresca di laurea. Ho imparato a conoscere tante persone diverse, tante culture e sicuramente un approccio diverso al paziente, stare vicini sia a livello medico ma anche umano. Colonna dell'ambulatorio mobile di Gradisca, il 31enne Atik, ingegnere pakistano del Kashmir, che aiuta con le traduzioni e ci tiene ad esprimere tutta la sua gratitudine. Se a Gradisca è una novità, Donk è già ben conosciuta nel terzo settore a Trieste, dove opera dal 2012. Alla fine di quest'anno potrebbe arrivare al record di 5.000 visite totali, molte nel centro diurno di via Udine. Sul lettino un ragazzo che deve ancora recuperare da un'operazione all'addome svolta in Grecia. Su di lui le mani del medico di pronto soccorso Nicola Artusi. Penso che per loro sia fondamentale, penso che anche per noi sia fondamentale ricordarci che non siamo solo parte di una catena, di una specie di fabbrica ospedaliera, ma che ogni tanto ci sia anche una componente umana, penso sia importante. Il tutto in collaborazione con Asugi, l'azienda sanitaria, punto a cui tiene molto il presidente e fondatore di Donk, Stefano Bardari. Si offre anche un controllo della salute pubblica insieme appunto con Asugi e le autorità per il benessere della popolazione locale e poi soprattutto si prevengono tantissimi accessi al pronto soccorso che altrimenti sarebbe l'unico sbocco dal punto di vista sanitario, almeno per i primi mesi del loro arrivo. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato alla giunta comunale di Grado una richiesta di chiarimenti sulla proroga delle concessioni balneari concessa nel 2019, contestata l'applicazione della legge Centinaio, ma rimodulare le concessioni o le proroghe non è semplice e dal 1 gennaio prossimo i concessionari di Grado rischiano di trasformarsi in abusivi. L'antitrust chiede chiarimenti al comune di Grado sulle concessioni balneari. Decaduta la giunta, la risposta dovrà arrivare non più dall'ex commissario diventato sindaco Claudio Kovac, bensì da un nuovo commissario indicato dalla regione. La lettera dell'autorità garante della concorrenza e del mercato riguarda infatti tutte e 22 le concessioni a uso turistico-ricreativo. Della durata di 6 anni scadevano nel 2020, ma la giunta della loro sindaco, Raugna, si avvalse della cosiddetta legge Centinaio per una proroga delle stesse fino al 2033. La legge Centinaio fu però bocciata nel 2021 in quanto in contrasto con le direttive comunitarie. Da qui la missiva dell'antitrust che chiede lumi al comune su quali provvedimenti abbia adottato per far fronte al mutare della normativa. Siamo di fronte a una situazione paradossale, indica Roberto Marin, presidente della GIT di Grado. Su quella concessione abbiamo già pagato allo Stato delle tasse, ad esempio. Non solo, dal 1 gennaio 2024 potremmo diventare occupanti abusivi di demanio, in quanto le attuali concessioni scadono nel 2023. I comuni non possono metterle a gara in assenza di criteri per farlo, che ancora non sono stati emanati dal governo. Mancano infatti i decreti attuativi di un disegno di legge, voluto da Draghi, sulle modalità di assegnazione delle concessioni. In caso non arrivassero, ci potrebbe essere una proroga di un altro anno, ma non oltre. In questo guazzabuglio giuridico-amministrativo, a perderci saranno i turisti, commenta Salvatore Sapienza, coordinatore regionale del sindacato balneari, perché i gestori, vecchi e nuovi, non riescono a programmare gli investimenti necessari. L'assessore regionale Callari si dice pronto, se lo Stato non dovesse prendere una decisione, a fare la propria parte con una nuova legge regionale, pur rischiando di andare in contrasto con l'esecutivo, visto che 3 anni fa una legge simile fu bocciata dalla Corte Costituzionale. In regione sono 2 le tipologie di concessioni a uso turistico-ricreativo. Della durata di 6 anni sono ben 176 gestite dai comuni e 13 più lunghe di competenza regionale della durata di 20 anni. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Torna il Career Day dell'Università di Trieste, è arrivato la sua 13ª edizione. L'Ateneo Giuliano oggi organizza colloqui di selezione per 700 tra studenti e laureati che incontreranno 54 aziende nazionali e internazionali. Faccia a faccia per capire cosa ognuno può offrire all'altro. 700 studenti dell'Università di Trieste, 54 aziende ed enti del territorio e non solo, si confrontano nell'appuntamento annuale del Career Day. In palio posizioni a tempo indeterminato o determinato oppure stage e opportunità di formazione in diversi settori. Lucio Torelli, delegato all'orientamento dell'Università di Trieste. Sempre di più in questi anni i profili richiesti sono proprio di vario tipo, quindi non solo le grandi richieste di ingegneri, di intelligenza artificiale, di fisici, di matematici, ma anche grandi richieste per quel che riguarda la presenza di cooperative sociali, quindi di assistenti sociali, di profili umanistici che sempre più vengono richiesti dalle aziende. Nel mese passato laureati e laureandi hanno partecipato a laboratori su come scrivere un curriculum efficace e su come presentarsi a un colloquio. Le giovani risorse si mostrano sempre più esigenti su cosa vogliono dal mondo del lavoro. Cerco un po' di scoprirmi, quindi vedere cosa mi offrono le aziende. Sono interessato alla mobilità professionale all'estero, mi piacerebbe fare un'esperienza fuori regione, fuori anche dall'Italia. Vorrei trovare l'opportunità giusta per crescere, iniziare a fare la figura per cui sono venuto in Italia, che fare ingegnere informatico. Mi sto laureando alla magistrale in scienze filosofiche e mi piacerebbe trovare un lavoro nelle risorse umane. Il Career Day è una soluzione per favorire l'incontro, a volte difficile, tra università e mondo del lavoro, che negli anni scorsi ha mostrato di funzionare. Il lavoro di oggi è il frutto di anni di contatti, di reciprocità, di rapporti, e lo vediamo anche dal fatto che alcuni dei recruiter di oggi sono studenti che hanno avuto i primi contatti con le aziende proprio in eventi di questo tipo. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. 15 persone sono indagate per la vendita e l'acquisto di oggetti in avorio privi di certificazione. È il risultato delle indagini condotte dai carabinieri forestali diretti dalla Procura di Trieste, che nell'arco di 4 mesi hanno eseguito perquisizioni personali e locali in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana. I controlli svolti in regione hanno riguardato antiquari, case d'asta, rigattieri, ma anche i canali di vendita online. In particolare, un'indagine è partita da un controllo presso un commerciante di Trieste e ha portato al sequestro di 2 oggetti in avorio. In totale, al termine della campagna di perquisizioni, sono stati sequestrati oggetti in avorio per un valore di 7.000 euro, tra cui statuette, sculture e miniature. Un cittadino sloveno di 48 anni è stato arrestato dalla polizia di Gorizia per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e da poco residente nel capoluogo isontino, era sospettato di avere a che fare con attività legate alla droga ed era stato messo sotto controllo dallo scorso agosto. Nel corso di una perquisizione domiciliare, il 18 settembre, gli agenti della squadra mobile hanno rinvenuto nel terrazzo e all'interno dell'appartamento 21 piante di cannabis, 4 contenitori con 160 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e denaro di verosimile provenienza illecita. Il 48enne è stato tratto in arresto per il reato di produzione di sostanze stupefacenti. 74 persone e 21 unità da diporto soccorse, oltre 13.500 controlli effettuati, 116 illeciti amministrativi e 3 penali accertati. È il bilancio di quest'estate della campagna di controllo Mare Sicuro della Guardia Costiera in Friuli Venezia Giulia, che in una nota sottolinea come nell'ultimo triennio si sia registrata, in linea con l'andamento nazionale, una riduzione dei soccorsi alle unità da diporto, che testimonia l'importanza dell'unità informativa e preventiva e una maggiore sensibilità da parte dell'utenza. Diamo un'occhiata al tempo, il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 25 gradi, mare poco mosso con temperatura di 23 gradi, a Udine 25 gradi e mezzo, a Gorizia e Pordenone 26, a Sappada 11 gradi, Tarvisio e Piancavallo 16 e mezzo, Forni di Sopra 18 e mezzo, Tolmezzo 19 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 10 gradi, Monte Zoncolan 13, tornando sulla costa a Lignano 24 gradi e mezzo con temperatura del mare di 21 e mezzo, a Grado 25 e mezzo con temperatura del mare di 23 gradi. E le previsioni per le prossime ore: cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura in quota e temperature massime estive. Soffierà bora moderata sulla costa e zone orientali, in attenuazione nel pomeriggio sulla costa occidentale, dove potrebbe a tratti girare di brezza. Le 12.44, siamo allo sport. Il calcio: l'Udinese cerca di voltare subito pagina dopo la sonora sconfitta di ieri a Napoli. L'obiettivo, già nel mirino di mister Sottile e dei giocatori, è la prossima gara di domenica. 3 punti in 6 partite, 2 reti segnate, secondo peggior attacco del campionato, 10 subite, terza peggior difesa. L'Udinese guarda tutti, tranne il Cagliari, dal basso della classifica. La sconfitta con il Napoli, preventivabile, mette in luce una squadra dove inevitabilmente la pressione toglie sicurezze. Il poker azzurro nasce da un errore di Ebosele, ma gli uomini di Sottil fanno comunque un grande passo indietro rispetto alla partita con la Fiorentina. Non siamo mai riusciti a entrare in partita, sì, coi cambi qualcosa hanno portato, però mi aspettavo più cattiveria agonistica, più pressing, più coraggio, più personalità. produciamo anche oggi, abbiamo calciato in porta ma non siamo poco precisi, quindi poco da dire. Nel 2023 l'Udinese è la squadra che ha vinto meno partite, soltanto 5, come la Salernitana. La vittoria domenica in casa con il Genoa, avanti di un punto in classifica, per il tecnico dei friulani sembra già l'unica possibilità per non rischiare l'esonero, perché contano solo i risultati. Ma non si può dimenticare quanto possano aver inciso le partenze di Udogi, Becao e Beto, l'attesa per un ritorno in condizioni di Pereira e la mancanza di giocatori d'attacco. Deulofeu, Brenner e Davis non si sa quando rientreranno dai loro infortuni. La squadra sta crescendo, si sta conoscendo, è chiaro che ci va un pochettino di tempo per mettere insieme tutti questi giocatori nuovi. Però è anche vero che il campionato è veloce, non ti aspetta e dobbiamo cominciare assolutamente a vincere, questo sono d'accordo. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Pallacanestro Trieste, la squadra terrà oggi il suo primo Fan Appreciation Day, evento in cui i giocatori possono incontrare i tifosi per rafforzare il legame di appartenenza della squadra alla città. Gli appassionati potranno assistere da vicino agli allenamenti e vedere i giocatori in azione, oltre che scattare foto con loro. Gli abbonati, che saranno estratti a sorte, potranno anche seguire un walkabout del Pala Trieste con un tour degli spogliatoi e un incontro con coach Jamion Christian e il general manager Michael Arcieri, oltre ad assistere a una conferenza stampa. Inizio alle 17.50 al Pala Trieste. Gli appuntamenti, la storia di Ilaria Alpi, giornalista del TG3, uccisa insieme al suo operatore Miran Hrovat in Mogadiscio, e al centro dello spettacolo, in scena stasera alle 20.30 in Sala Bergama Sagradisca, dal titolo Lo Schifo, scritto da Stefano Massini e interpretato da Anna Tringali per la regia di Giorgio Sangali. Uno spettacolo che procede per frammenti, come un rebus, sullo sfondo di una storia di violenza e corruzione. Ne abbiamo parlato con il regista Giorgio Sangali, a partire proprio dal titolo. Lo schifo è un titolo ambivalente. Da un lato è lo schifo che suscita la vicenda anche processuale che ha seguito la morte di Ilaria Alpi per via degli insabbiamenti e del risultato di non cercare, di non voler trovare la verità, perché si tratta di una verità scomoda. Ma è anche l'anagramma di una compagnia che, appunto, chi vedrà lo spettacolo scoprirà in modo più dettagliato. Il vostro spettacolo presenta rebus ed enigmi. Perché viene raccontato in questo modo? Si presenta come un rebus perché abbiamo immaginato che Ilaria ripercorra in punto di morte gli ultimi giorni che precedono quell'avvenimento, in una ricostruzione di elementi che permettano di capire la ragione di quell'omicidio. Lo spettatore quindi come vive questo spettacolo? Lo spettatore vive attraverso, appunto, l'interpretazione di Anna Tringali in prima persona quegli ultimi giorni e quindi ne percepisce le sensazioni, le intuizioni, le emozioni, quindi è in realtà un percorso molto lirico e molto emotivo. E cosa impara dalla vostra rappresentazione? Non so se lo spettatore impara letteralmente qualcosa, ma sicuramente si porta a casa un'indignazione, ecco, riguardo a quanto possono essere difficili le vite di chi cerca realmente di scoprire la verità, in un mondo in cui è sempre più difficile scindere cos'è giornalismo buono, che cos'è invece mistificazione oppure opportunismo. Ecco, in questo mondo ricordare invece chi ha lottato fino all'ultimo con un atteggiamento in realtà estremamente deontologico, estremamente concreto, mi sembra molto importante. Per la 10ª edizione del premio Friuli Storia, oggi la cerimonia di consegna a Udine agli storici Thomas Hippler, autore del Governo del Cielo, e a Vittorio Coco per il suo Il Generale dalla Chiesa. A seguire un talk sulla storia contemporanea con il giornalista Massimo Bernardini, il direttore scientifico Tommaso Piffer e il nuovo presidente Ernesto Galli della Loggia, alle 18 a Udine in Castello. E a Turiaco, nella sala del Consiglio Comunale, sempre per la rassegna Dialoghi, sarà ospite oggi alle 18 la scrittrice e giornalista Benedetta Tobagi, vincitrice del premio Campiello con il suo libro La resistenza delle donne. A intervistarla saranno alcuni ragazzi del polo liceale di Gorizia. A Benedetta Tobagi abbiamo chiesto perché scrivere oggi un libro sulla resistenza e perché farlo dal punto di vista delle donne. Non è ben chiaro nell'immaginario quanto fondamentale sia stato il contributo delle donne e quanto variegato. Le donne hanno combattuto con le armi e senza, da una grande varietà di posizioni ideologiche, e sono state fondamentali, cioè senza donne la resistenza non si poteva fare. Hanno fornito anche tutta la base logistica, oltre a combattere spesso con le armi in pugno. Quindi mi sembrava un tema molto affascinante da esplorare con una modalità che si appoggiasse a una solida base storica, ma fosse narrativa, fosse evocativa, intrecciasse la grande storia con le vite individuali, in modo da poter raggiungere tante persone. Quanto al perché scrivere di resistenza oggi, mi viene da rispondere proprio di cuore, oggi più che mai, perché la resistenza è la radice, la matrice della nostra Repubblica. È un'eredità che però viene messa spesso in discussione, in Italia come in Europa la destra è forte, in Italia anche al governo, e in qualche modo mistifica il racconto di quella pagina di storia che è stata molto complessa, ma è stata anche già esplorata in tutte le sue complessità. Qui in Friuli Venezia Giulia è molto importante la figura di Paola Deldine, che è stata una combattente della Resistenza, ma che non si definisce partigiana, bensì patriota. La storia della parola patria è un romanzo a sé. Non solo lei, ma le partigiane e i partigiani ci tenevano molto a dire che loro erano i patrioti, che loro stavano facendo rinascere l'Italia dalle macerie del fascismo, dalla devastazione della guerra. E quindi, visto che poi nei decenni è stata la destra a appropriarsi di questa parola, è molto importante invece ricordare quanto fosse importante per quelle donne e quegli uomini il sentimento che loro stavano lottando non solo contro il nazifascismo, ma per costruire un'Italia nuova, un'Italia diversa, un'Italia più giusta. E sempre per il Festival della Conoscenza Dialoghi alle 18 è in programma l'incontro dal titolo Restare, Tornare, Arrivare sui giovani nelle terre alte. Si indagheranno le opportunità, le difficoltà, le strategie e le visioni. Inizio alle 18 al Teatro Gustavo Modena, Palmanova. La musica, ieri sera il pianista Maurizio Baglini, che ha da poco lasciato la carica di consulente musicale del Teatro Verdi di Pordenone, si è congedato dalla città. Un concerto evento a ingresso libero con musiche di Chopin e Mussorgsky. Un concerto di commiato per un pianista che ha segnato profondamente la vita musicale di Pordenone. Maurizio Baglini ha salutato il pubblico del Teatro Verdi, del quale è stato per diversi anni consulente musicale, portando in città nomi di rilievo internazionale. Un ruolo di organizzatore culturale che aveva quasi fatto passare in secondo piano le capacità di esecutore di Baglini, che sono di livello assoluto. E ieri sera se ne è avuta l'ennesima riprova con un concerto omaggio alla città. Ad aprire il programma alcuni dei brani più famosi di Chopin, compresa la prima ballata e la polacca in la bemolle, nota come eroica, pagine ben conosciute da qualunque appassionato che, come di consueto, Baglini ha affrontato con un'angolatura per molti versi inedita. La creatività dell'approccio, del resto, è uno dei segni distintivi del pianista pisano, confermato anche dall'esecuzione dei quadri di un'esposizione di Mussorgsky, con scelte di sonorità e di ritmi decisamente non consuete. Un saluto in grande stile per Baglini, e al suo posto come consulente è arrivato un altro asso della tastiera come Roberto Prosseda. Andrea Vardane, Gatti GR Friuli Venezia Giulia. Alcuni altri appuntamenti: serata inaugurale del 31esimo convegno del Centro Balducci. L'incontro si intitola Linearità dei confini e complessità del mondo, alla Sala Petris di Piazza della Chiesa, Zugliano, alle 20.30. Mondo del lavoro, oggi l'evento Born to Run, organizzato dal Movimento Giovani Imprenditori all'Abbazia di Rosazzo, alle 18.30. A Pantianicco parte oggi la seconda tranche di eventi della 52esima manifestazione della Mostra Regionale della Mela, alle 19, apertura dei chioschi. A Monfalcone parte la mostra storica storico-fotografica dedicata alla Marina da guerra austro-ungarica, apertura alle 17.30 nell'atrio della sede comunale del comune di Monfalcone. La coscienza di Zeno in programma oggi, la prolusione allo spettacolo che inaugura la stagione del Teatro Stabile delle Friuli Venezia Giulia a Trieste, appuntamento al Caffè Rossetti alle 17.30. Poesia friulana e poemi epici a parole, canti, danze, incontri di poesia e bellezza a Udine a Palazzo Antonini nel Parco Ragazzi del Brunetta alle 17.30. Continua il programma di Alto Livenza Festival con la grande messa in Do Maggiore di Haydn, Missa in Tempo Rebelli, oggi al Duomo di San Marco a Pordenone alle 20.45. Stasera il primo dei tre concerti di giovani in orchestra alle 20.30 al Nuovo Teatro Lavaroni di Artegna. Nuovo ciclo delle letture d'arte per bambini al Museo Re Voltella a Trieste. Si inizia con letture dedicate a Paul Cézanne alle 17. Alle 12.56 si chiude questa seconda edizione del giornale radio regionale per il Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta in studio da Andrea Covre e Dario Ronzoni. È andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli. Andrea Fontanotti in redazione ha collaborato Samantha Gon. Grazie per la vostra cortese attenzione e buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.